Capuano e Pierluigi Pardo. Siamo qui, 14.06, 10 secondi, ultime convocazioni del 2017, quindi segnatevi subito il numero 800240024, perché Mara intervenire fino alle ore 15, i temi sono tanti perché questa sera inizia l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A, c'è Crotone-Napoli, cioè siamo ancora sulla coda della Coppa Italia e di quello che ha detto il derby di Milano, la rinascita del Milan, la crisi dell'Inter, ieri stati generali da Piano Gentile per capire come uscire, anche perché domani c'è Inter-Lazio che vale più di uno spareggio, secondo me, sulla strada del quarto posto che a maggio regalerà la Champions League. Domani c'è anche Fiorentina-Milan, perenne ultima spiaggia per Gattuso, c'è Verona-Juventus, sentiremo tra poco le parole di Allegri. Insomma, i temi sono tanti. 800 24 00 24, ultime convocazioni del 2017. Se volete datemi anche il vostro podio dei migliori e del peggiore di quest'anno. Dai, 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Saluto subito Matteo Marani. Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, bentrovati. Allora, questa sera c'è in palio che cosa? Un titolo, secondo me, non tanto platonico come sembra. Poi io lo so che adesso scriveranno tanti tifosi della Juve, gli scudetti si vincono a maggio e alla fine la Juventus nella seconda parte della stagione fa sempre valere il suo peso. Però basta dare un'occhiata ai numeri e quindi dall'anno dell'introduzione dei tre punti per vittoria, 95-96, solo 6 volte su 23 chi è stato campione d'inverno non si è ripetuto a maggio e soltanto una volta negli ultimi 13 anni. È accaduto 2015-2016, guarda caso, al Napoli di Sarri, che poi fu scavalcato a febbraio dalla Juventus di Allegri. Però io sono convinto che questa stagione abbia delle anomalie nel calendario, nel comportamento delle squadre, e quindi oggi c'è in palio un titolo che è tutt'altro che platonico. Matteo. Ma io credo che sia da parte del Napoli il bisogno di dare un'ulteriore risposta, cioè nel senso di dimostrare che il periodo più difficile è alle spalle e chiudere questo girone da primo, quindi da campione d'inverno, che in effetti è soltanto un dato statistico, ma che comunque sarebbe, come dire, un'assunzione anche di forza, di coraggio da parte della squadra di Sarri. Mi sembra che questo sia stato comunque complessivamente l'anno del Napoli, cioè il Napoli stasera ha la possibilità di chiudere con questi famosi 99 punti, un 2017 mirabolante. Cioè 99 punti, 39 partite, una esatto. Più di un campionato intero. E fosse stato, diciamo, distribuito non nell'anno solare, non nell'anno calcistico, il Napoli avrebbe quasi certamente vinto questo diciamo virtuale campionato del 2017. Questa dimostrazione, secondo me, di un lavoro che viene dal passato, insomma, di questi anni, che è cresciuto, di un ambiente che è maturato molto e che forse sta trovando anche, come dire, le risorse per fronteggiare le difficoltà che si sono presentate, perché era difficile prevedere la rottura del ginocchio di Milik, le difficoltà, l'infortunio di Goulam, cioè un Napoli che ha avuto anche una serie grossa di sfortune. Malgrado questo, mi sembra che la squadra stia reagendo. Questo ci aspettiamo da Crotone. Ma tu te la senti dire, dai, io lancio la provocazione, la lancio anche agli amici a casa, 800 24 00 24, te la senti di dire che il Napoli è stata la squadra italiana più forte del 2017? No, non lo posso dire perché devo tenere presente che la Juventus è arrivata in finale di Champions, quindi questo va tenuto conto nel bilancio, cioè bisogna guardare anche quello che si è fatto in Europa, quindi direi che sono state due squadre, secondo me, più forti, tutte sono state ovviamente Juventus e Napoli, che non a caso stanno segnando anche questa stagione, con due strade molto diverse. Uno arriva dalla ricchezza, dalla profondità di rosa, dalle alternative superiori che ha la Juventus, dall'altra parte, io credo, da un'idea di un concetto di gioco molto unico, molto molto pregnante anche di Sarri, che è quello che ha fatto la differenza. Quindi con due storie diverse mi sembra che siano le due squadre che vanno anche a segnare questa stagione. Io dico da inizio anno che sarà un duello tra Juve e Napoli, cioè sono le uniche due squadre, secondo me, che hanno il potenziale per superare i 90 punti, e quindi credo che sia tra queste due la possibile vincitrice di maggio. Sì, anche se tra le anomalie, la prima anomalia, secondo me, che rende questa stagione diversa dalle altre è il calendario finale della Juventus, che dal 22 aprile in poi avrà, come ha avuto in questo finale di giorno d'andata, Napoli e poi le trasferte contro Inter e Roma, e insomma si tratta di un calendario parecchio complicato da gestire poi da metà aprile a metà maggio. L'altra anomalia, mi pare, adesso sentiamo De Rossi, credo proprio ai microfoni di Sky ieri, è che rispetto al passato, se si ascoltano i giocatori del Napoli, si ascoltano i giocatori della Roma, è come se sia venuta un po' meno la sudditanza psicologica nei confronti della superiorità della Juventus. Noi abbiamo fatto la nostra partita, credo, un pochino meno bene nel primo tempo per certi versi, molto meglio sicuramente nel secondo tempo. Ci sta di soffrire per una parte di gara la Juventus, la soffrono un po' tutti. Credo che poi dopo, insomma, anche un pareggio non sarebbe stato un risultato assurdo, un risultato tra virgolette rubato, sarebbe stato un risultato che poteva starci e che avrebbe portato proprio noi tutti quanti a vedere questo nostro inizio di stagione in maniera un po' differente. Hai anche tu la sensazione, Matteo, che ci sia un po' meno paura della Juve? Penso diversamente, penso che sia calata la differenza, cioè nel senso che la Juve, lo dicono i numeri, era l'anno scorso una squadra che viaggiava da vittoria scudetto e quest'anno fa la stessa cosa. Quello che è successo è che ci sono state altre quattro squadre, cioè ovviamente gli Inter, Napoli e Roma, quindi altre squadre che sono diventate squadre, e la Roma sono squadre che hanno, diciamo, lo spessore per vincere. Cioè i numeri ci stanno dicendo che la loro crescita ha fatto sì che sia diminuita la differenza. Non è che la Juve ha perso punti, la Juve sta viaggiando esattamente come viaggiava prima. È successo che queste squadre, in particolare la Roma, da un sono d'accordo con quello che dice Rossi sul fatto che la Roma probabilmente poteva anche meritarlo il pareggio nell'ultima parte della gara, sono cresciute molto. Cioè la Roma è una squadra che, se la vai a vedere da un punto di vista statistico, ha tutti gli elementi, tutti i requisiti per essere una squadra da corsa, perché è una squadra che prende meno gol, sì. E quella che prende meno gol, chiaro, segna di meno, questo lo sappiamo, un po' il problema, sì, della Roma. Poi sentiremo di Francesco, che ha annunciato che domani gioca ancora Schick, poi ha fatto tutto un ragionamento sull'eventualità di cambiare modulo, abbandonando il 4-3-3, ma non per altre formule, ma per il 4-2-4, e credo sarebbe davvero curioso vedere la seconda parte della stagione con la Roma che gioca al 4-2-4. E prima di chiederti chi merita secondo te la nomination come migliore e peggiore, se vuoi, anche del 2017, tra le voci di questa mattina, è giornata di vigilia, quindi ci sono in corso tutte le conferenze stampa, mi ha molto stimolato questa di Allegri su Dybala. Io credo che i paragoni che sono stati fatti all'inizio sono stati dannosi per Paolo, che fortunatamente è un ragazzo intelligente e ha capito. Perché non si può paragonare un ragazzo di 24 anni a due mostri sacri del calcio, anzi a tre. Paolo deve fare il suo percorso e non deve essere paragonato a nessun altro giocatore, perché ha le sue qualità, è un giocatore straordinario, basta vederlo giocare, si vede che è diverso dagli altri. Ma questi paragoni che gli sono stati fatti, secondo me, gli hanno un pochino creato dei danni. E poi sono paragoni che non si possono e non si devono assolutamente fare. Allora, caro Matteo Marani, io ricordo che all'inizio di questa stagione, senza fare paragoni con Ronaldo e Messi, però l'asticella Dybala, Allegri era stato il primo ad alzarla. Sì, però credo che la forza di Allegri sia esattamente questa in questo momento, cioè di poter rinunciare anche a Dybala. Credo che nessun altro allenatore della Serie A in questo preciso momento. Domani gioca, Domani gioca. Sì, io dico le partite, diciamo, le ultime, che sono state quelle partite anche un po' più delicate, in cui diciamo la Juve si giocava molto, ovviamente sugli scontri diretti. Ha in questo momento questa forza perché lui ha come funzionalità ultima quella della squadra. La squadra, quando trova un equilibrio, qualunque esso sia, qualunque posto lo porti, lui sostiene l'equilibrio. Credo che sia il più libero tra gli allenatori di Serie A nel poter fare questo tipo di scelte oggi. Cioè, quando sentivo prima che facevi riferimento su Di Francesco, che pensa al cambio di modulo per inserirvi Schick, è l'esatto opposto rispetto al ragionamento che fa Allegri. Cioè Allegri ha trovato un equilibrio con questo 4-3-3, in cui ovviamente l'unica posizione per Dybala sarebbe quella di sostituire Higuain, ma in questo momento non può sostituire Higuain, non è al massimo, evidentemente la concentrazione non è la migliore, abbiamo sentito nelle settimane scorse anche le parole della società, di Nedved, quindi probabilmente il quadro non è dei più sereni e tranquilli, e quindi lui fa una scelta dirompente, premiando Mandzukic, premiando Higuain, premiando i giocatori che in questo momento gli stanno dando di più, e quindi il talento maggiore, il giocatore più importante in prospettiva della Juventus, e i paragoni è vero che sono stati fatti un po' troppo rapidamente con Messi e con Alzo, sono stati anche un po' dannosi al ragazzo, però detto tutto questo, la cosa che rimane è che Allegri può fare delle scelte, sì, può fare veramente autonome. Ma l'avevamo capito, l'anno scorso ha mandato Bonucci sullo sgabello ad Oporto e poi è finita come sappiamo. Ti chiedo un minuto di pazienza, facciamo Alessandro da Palermo, 800-24-0024, Alessandro. Pronto, salve, buongiorno. Vai. Complimenti per la trasmissione, auguri per il nuovo anno. a proposito di anno, vorrei fare una piccola classifica dei migliori e peggiori, secondo me. Vai. Tra allenatore, presidente e giocatori. Allora, i migliori: Allegri, Sarri, Simone Inzaghi e Higuain. Tra i peggiori metto Montella, l'Oscar va a Ventura, sicuramente, Ausilio per le dichiarazioni che fa, e poi personalmente, per essere un tifoso del Palermo, a Zamparini. Che non, abbiamo, che non abbiamo ancora capito che cosa fa. Grazie Alessandro. E neanche noi a Palermo l'abbiamo capito. Sì. Insomma, ma così ce lo trasciniamo anche nel 2018. Matteo, mi dai i tuoi migliori e peggiori del 2017? Ma vado abbastanza in linea con quello che diceva l'ascoltatore di Palermo. Credo anch'io Sarri, Allegri su tutti come allenatori, perché hanno contrassegnato in maniera diversa, come dicevo prima, un po' la stagione. Sui giocatori singoli io faccio un'altra scelta, scelgo Mandzukic, perché mi sembra l'identità della Juventus di questa stagione, c'è la differenza rispetto agli anni passati. Scelgo Mertens, se vuoi il premio andrebbe diviso con Sarri, perché avere l'idea, l'intenzione di farlo centravanti, farlo diventare probabilmente il miglior cannoniere del Napoli, era ci voleva un visionario come Sarri è stato. Metto Icardi, perché la crescita di Icardi è un altro segno che rimarrà negli anni, cioè questa stagione qui sarà quella che avrà consacrato la nascita veramente di un grandissimo centravanti a livelli alti. E peggiori direi di gran lunga ovviamente Ventura, a cui ci leggo Tavecchio, a cui ci leggo un po' tutta la gestione del calcio italiano, che è stata purtroppo veramente fallimentare. Cioè il 2017 ce lo ricorderemo, sì, soprattutto per l'inopinata eliminazione contro la Svezia. Anno storico in negativo, e rispondo anche a chi chiede se la FIGC non doveva dominare un presidente entro il 12 dicembre. 29 gennaio, amico mio, devi aspettare il 29 gennaio. Grazie Matteo Marani. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, io lo aspetto, il vostro podio, scrive Vincenzo: 1 il bel gioco di Sarri, 2 la salvezza del Crotone, 3 il catenaccio della Svezia. 800 24 00 24, 349 238 6666 per gli sms e WhatsApp. Arriva Pierluigi Pardo, arriva Pierpaolo Marino, arriva anche Cesare da Ravenna, che prendiamo dopo il traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta Tutti convocati. Allora, Roberto Tavarese, non è una solita trasmissione anti-juventina a prescindere, vedremo a maggio, l'abbiamo detto, vedremo a maggio. Il Napoli sta facendo un grandissimo campionato e ha fatto un grandissimo 2017. È una provocazione, se è la squadra o no più forte del 2017. Matteo Marani ci ha detto secondo lui no. Io vi aspetto, 800 24 00 24. E poi ancora... c'è chi ci accusa, Michi, di dare per defunta l'Inter un po' troppo presto. Abbiamo detto semplicemente che è in crisi, e lo è, perché 3 sconfitte di fila certificano un momento difficile che si può anche chiamare crisi. Sarà passeggera, ma oggi è così, e la partita di domani con la Lazio è una partita fondamentale. Cesare da Ravenna, Cesare. Auguri a tutti. Auguri anche a te. Io sono un romanista, ahimè, anziano, che abita a Ravenna, Roma dai tempi del povero Giuliano Taccora, quindi qualche annetto fa, e ho avuto piacere, andando a Roma per lavoro qualche giorno fa, di sentire le radio romane abbastanza soft. Ecco, io credo che la Roma, se non quest'anno, quest'anno la Roma può al massimo arrivare per me terza, quarta in Champions, e spero, questo sì, che possa passare il turno con lo Shakhtar, non di più. Ma se la Roma magari riuscirà a vincere qualcosa gli anni futuri anche con lo stadio nuovo, lo potrà fare solo se la squadra potrà vivere in un ambiente normale, perché Roma non è un ambiente normale. E io ogni volta che vado, io abito in provincia, in una zona peraltro bianconera ovviamente, però insomma è tutto un ambiente un po' soft, qui è tutto esagitato, e io credo che questa cosa qui, cioè ogni problema viene centuplicato, quadruplicato, è una cosa che per me danneggia la squadra e la società, che sta facendo degli egregi campionati, perché da anni, io vorrei non ho una statistica, ma dal 2001, quando abbiamo vinto l'ultimo scudetto, a oggi, quante volte la Roma è arrivata secondo o terza, non si contano più. Se ci fosse un bonus per un secondo posto, era già vinto il campionato. Sì. Sempre che poi i campionati si devono vincere, perdonami Cesare, adesso... non mi fare il cinico, ma bisogna anche vincerli, però prego. No, finisco dicendo che uno poi non ho mai capito perché hanno dato un campionato revocato alla Juve Inter, l'altro che invece eravamo arrivati secondo noi e a noi no. Però ma guarda, se mi consenti, io eviterei di chiudere il 2017 tornando a parlare di Calciopoli, di tutte le sentenze, di tutto, ma me lo prendo io come vezzo, insomma, mi sembra che abbiamo dato sul tema. Ieri Totti ha detto che uno scudetto a Roma vale 10 scudetti vinti altrove, che credo sia una verità, però credo sia anche il grandissimo limite della piazza di Roma. Allora, voci della vigilia, l'abbiamo citato prima, di Francesco sull'opportunità o meno di cambiare modulo per inserire Schick. Io credo che questa squadra abbia trovato degli equilibri, dei meccanismi tali che se dobbiamo ributtarli o rimpiangerli perché abbiamo perso due partite, secondo me facciamo un grandissimo errore e io sono il primo a farlo. E l'equilibrio che abbiamo deve essere anche nella mia testa e in quello che andiamo a giudicare. Detto questo, io posso utilizzare il 4-3-3 o il 4-2-4. Il 4-2-3-1 è una cosa che nemmeno non c'ho nella mia testa e non è... non mi piace tantissimo, poi magari lo rifarò, però nelle caratteristiche dei giocatori che ho, se io dovessi cambiare, cambierei in un 4-2-4, questo sì. Questo di Francesco pochi minuti fa. Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Bene, non c'è male, così tranquillizziamo l'amico che ha scritto, e addirittura auguri cordiali, ha detto: è vero che ci regalate l'ultima schedina del 2017? Ah, è vero, gliela regaliamo, certo gliela che gliela regaliamo, però certo. Devi aspettare dopo la borsa. Siamo 7-6 per te, no? Siamo 7-6 per me, sì, non vale il pronostico di Coppa Italia. E... no, siccome siamo... siccome siamo di furti, no, di rapina a mano armata, di botte, di... Vabbè, lo sappiamo, però noi siamo così, non ci piace recriminare, pensiamo positivo. Tanto, siccome siamo in fase di bilanci, devo annunciarti, carissimo, per Luigi Pardo, che comunque vada a finire questo weekend nell'anno solare 2017, ho vinto io. Ma che roba è? Ma Marco, se ti può interessare. Ma che è? Frankfurt Volta ha chiamato, dai, su. Va bene, dai, Michele da Milano, poi sentiamo anche Inzaghi e Allegri. Michele. Pronto, salve, buongiorno. Vai. Buongiorno. Sono Michele Caruso e volevo chiedere, rispetto a Gattuso, all'allenatore nuovo che ha preso il posto di Montella, che è involata verso il Siviglia, sì, a quanto pare. Sì, no, a Siviglia è ufficiale. Sì. Ecco, esatto. Non si è fatto rimpiangere tanto Montella perché evidentemente non è corso buon sangue, credo, con la società, e quindi forse questo si percuoteva anche su una squadra che, diciamo, che oltre i UEFA iniziali, visto che ha speso più di quanto poteva, con nove leve non ha dato, diciamo, il fritto che lui si aspettava. Ma comunque, al di là di questo Gattuso, abbiamo visto che nel derby, che comunque è una partita a sé stante, grazie a Cutrone è andato avanti in Coppa Italia. Ma secondo voi, io chiedo quindi a lei, naturalmente i suoi interlocutori esperti di calcio che la coadiuvano, Ringhio, vuol dire, con la poca esperienza da allenatore, ma sicuramente col carattere e determinazione, potrebbe portare il Milan nell'Europa che conta? Grazie. No, la mia risposta è no. Poi leggo che cosa ha detto oggi Sacchi, ha scritto oggi Sacchi sulla Gazzetta. E cioè ha scritto che Gattuso è l'allenatore giusto per risollevare il Milan, a patto che quello che si è visto nel derby diventi un modus vivendi e non un episodio, e che la società si dimostri carismatica, con personalità e con competenza. Però secondo me Gattuso non è l'uomo per far rialzare il Milan. Prego, Pier. Neanche, non so chi, neanche Rockefeller, neanche non Mago Giurlì, cioè, scegli il mago più bravo del mondo, non lo so, riesce secondo me a portare il Milan al quarto posto se non succedono delle cose grandiose. Quindi allora, la partita dell'altro giorno ci dice delle cose, ci dice innanzitutto che la squadra sta con Gattuso, che il gruppo è compatto, e questo secondo me si era visto anche nella cattiva sorte contro l'Atalanta, perché comunque contro l'Atalanta si era visto che l'Atalanta era nettamente più organizzata del Milan, nettamente più squadra del Milan, ma io non ho avuto la sensazione di una squadra che remasse contro, comunque che fosse sfilacciata. Cioè, il Milan ha dato anche contro l'Atalanta tutto quello che aveva, non era abbastanza. Allora, adesso la stagione del Milan è la classica stagione, secondo me, di una squadra che deve in campionato pensare a cementare la posizione in Europa League, perché non c'è molto altro, secondo me. Il quarto posto non dipende neanche più tanto da lei, nel senso che ci vorrebbe il crollo di una di quelle che stanno lì davanti. Cioè il Milan dovrebbe prendere un passo di un certo tipo e contestualmente dovrebbe esserci una delle prime cinque, meglio due delle prime cinque. No, ma è una cosa poco praticabile, dai. Due delle prime cinque che improvvisamente implodono, cioè Inter, Lazio, Roma, parliamo Juve e Napoli, due fra Inter, Lazio e Roma che entrano in una crisi clamorosa. la Sampdoria che vabbè si scansa tra virgolette, cioè si abbassa il suo rendimento, e il Milan che comincia, mi sembra veramente molto difficile, mentre mi sembrano più praticabili le strade in Coppa. In Coppa il Milan può comunque regalarsi delle soddisfazioni, cioè, dire, se il Milan vincesse la Coppa Italia, cosa difficilissima perché secondo me anche con la Lazio è sfavorita, ma salverebbe la stagione secondo me, o comunque per come si è partiti, quindi questo secondo me diventa l'obiettivo. Poi è chiaro che Gattuso sì, è vero, ha poca esperienza, però è anche vero che è la prima vera opportunità strutturata della sua carriera, quindi secondo me ha il diritto di giocarsela, ha il diritto di giocarsela e il dovere di giocarsela bene, vedremo. Ma da qui a pensare che adesso, siccome il Milan l'altro giorno ha vinto contro l'Inter, io sono stato fuori dalla crisi. No, io sono stato tra quelli che prima della partita ha detto che era una grande occasione per il Milan, e lo è stata e l'ha colta benissimo. Però adesso da qui a pensare che arrivi quarta mi sembra francamente complicato. Allora, Inzaghi, domani Inter-Lazio, che è la vera partita clou della giornata. Una gara, ho detto prima, non decisiva ai fini della classifica, perché poi ci saranno altre 19 partite da affrontare, ma molto molto importante, perché incontriamo una squadra che c'è davanti in classifica, che vogliamo rimanere attaccati con tutte le nostre forze, nonostante tutto siamo ancora lì e dobbiamo continuare a esserci, perché domani voglio una prova da Lazio, e abbiamo dimostrato che quando facciamo prove da Lazio difficilmente sbagliamo la partita. Oh, questo Inzaghi che io metto sul mio podio dei migliori del 2017, stiamo raccogliendo anche questi. Sicuro, peggiore è Ventura per distacco, e mi associo a tutti gli altri, stanno arrivando anche i messaggi. I tuoi, Pier? Beh, gli allenatori del 2017 sono Inzaghi, c'è sicuro. Va bene, Allegri e Sarri. Allegri c'è sicuro, sai, ecco. Quindi già abbiamo fatto fuori il Paolo Gasperini, che arriva quarto. Abbiamo fatto fuori Spalletti. Beh sì, Spalletti arriva quinto. Allora io credo che Allegri non possa andare fuori dal podio. Inzaghi, per quello che la Lazio sta facendo, per la continuità che sta avendo, secondo me merita, per la Supercoppa italiana comunque, che non è un dettaglio, per la finale di Coppa Italia, insomma, meriti. C'è chi cita Nicola con il Crotone, possiamo mettere anche Nicola, facciamo un po' di allargato. No, voglio dire, ma è ovvio, di storie belle nel campionato ce ne sono tante, cioè, sicuramente Nicola è una di quelle, l'impresa che ha fatto per certi versi, io capisco la suggestione dell'ascoltatore, no? Nel senso che per certi versi, se guardiamo il 2017, è stato più clamoroso e più difficile salvare il Crotone che vincere il campionato per la Juve. Non c'è dubbio, cioè, se all'inizio dell'anno mi avesse chiesto quale delle due è più probabile, avrei detto tutta la vita vincere il campionato con la Juve, quindi se uno ragiona in questo modo, Nicola ci deve stare lì, però diciamo sull'attualità e diciamo Allegri per i risultati, Sarri per il gioco tra l'altro confermato anche dalla classifica, Napoli in testa della classifica, e Inzaghi come rivelazione. Nella categoria delle rivelazioni poi ci mettiamo sicuramente dentro Gasperini e Nicola. Sì, Gasperini lo vogliono in tanti. Spalletti ha avuto una continuità di rendimento, gli sono mancate alcune partite chiave. Insomma, quella settimana orribile dell'anno scorso secondo me rimane una macchia del 2017 che gli ha tolto molto, perché dopo la grande impresa di San Siro, ricorderete, contro l'Inter, la Roma si è schiantata contro il Lione e la Lazio in Coppa, e quello secondo me ha tolto molto. Cioè, se Spalletti avesse vinto la Coppa Italia, ecco, a dimostrazione di quello che diciamo prima sul Milan, se Spalletti avesse vinto la Coppa Italia e avesse passato quel derby, sarebbe stato completamente diverso. Ciò non toglie che sia bravo, e sicuramente quello che sta facendo all'Inter lo dimostra, e non sono le ultime tre partite secondo me che devono cambiare il giudizio, anche se un po' pesano, perché poi calcio questa roba pesano qua, molto, no? Pesano molto. Quindi, se sei semifinale di Coppa Italia o non ci sei, fa una certa differenza. No, ma poi sai, abbiamo sentito prima Simone Inzaghi dire se la Lazio fa una partita da Lazio oggi rischia anche di salire a San Siro e vincere. No, ma io con tutto quello che significherebbe. Io già ti preannuncio il mio pronostico. Cos'è? Non ti voglio dare vantaggi. Allora, facciamo così. 800 24 00 24. Ci fermiamo, poi c'è Andrea Mandorlini con cui parliamo dell'Inter, ma non solo. Borsa, torniamo subito. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23.20. Manca 23.24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. La Juventus non vince a Verona dal 2001 e ha perso tante volte. Credo che la Juventus e su 17 partite abbia perso 10 volte a Verona, abbia vinto solamente 7 volte. Quindi domani per noi è una partita dove bisogna prendere 3 punti. Ci sono delle partite come gli scontri diretti dove può succedere di tutto, perché negli scontri diretti può succedere di tutto, delle partite dove non può succedere niente, c'è solo da vincere e da prendere 3 punti. Altrimenti domani buttiamo all'aria quello che abbiamo fatto in questo mese. Allora, questa è la vigilia di Allegri, oggi abbiamo qualche problema sulle linee, carissimo Pierluigi Pardo, però insomma cerchiamo di risolvere. Allegri che ha snobbato un po' il fatto che questa sia l'ultima giornata del girone d'andata, con tutto quello che segue, con il fatto che probabilmente già questa sera avremo il nome della squadra campione d'inverno. Io sul Napoli voglio fare questo ragionamento, e cioè che è tanto più grande l'impresa che sta facendo, anche perché in realtà Da più di 2 mesi i suoi attaccanti hanno smesso di segnare. Ha preso 2 numeri, Mertens e Calleone hanno fatto l'ultimo gol in campionato il 29 ottobre. Calleone ha fatto un gol nelle ultime 12 partite e anche Insigne non è che stia segnando tantissimo. Sì, sono stati spremuti molto sia Mertens che Calleone. Io sinceramente penso che il dato più interessante e più promettente del campionato del Napoli sono le rimonte. Questo secondo me è il dato di tutti che insomma deve far sorridere di più e sperare di più i tifosi del Napoli, nel senso che comunque aver fatto 5 rimonte su 6, aver vinto 5 volte su 6 tranne Napoli-Juve dopo essere passati in svantaggio è un grande segno di forza caratteriale ed è qualcosa che secondo me nel passato il Napoli non aveva, quindi è la differenza rispetto agli anni scorsi. Poi sì, anche questa qui è una sottolineatura interessante, nel senso che anche questo, cioè, in generale nella vita, ma questo gli allenatori lo sanno benissimo, vincere, riuscire a vincere quando c'è qualcosa che non va, sotto forma di episodi, sotto forma di punteggio, sotto forma di condizione di giocatori così importanti, Mertens e Callejon sono sicuramente giocatori importanti, questo è veramente qualcosa che ti dà la misura di una squadra che se la cava, e il Napoli quest'anno se la cava. Io penso che stasera insomma farà quello che deve fare, come si farà la Juve domani a Verona, e sarà campione d'inverno. Poi è ovvio che la quantità, non solo la qualità, la profondità della rosa della Juve per me rimane superiore, però il Napoli è cresciuto tanto, quindi secondo me ci aspetta una grandissima battaglia e un grandissimo corpo a corpo. Sì, anche se io sto maturando l'idea che bisogna fidarsi di Sarri, e quindi anche pensare che sul mercato di gennaio il Napoli possa prendere qualcosa di importante sia forse un pensiero sbagliato. Cioè alla fine bisogna fidarsi di lui, tanto lui punta oggi su 13-14 giocatori, non di più. Oggi intervenivo dai miei amici di CRC a Napoli e sul discorso di Verdi, no? Io penso che questo vale anche per i calciatori che in qualche modo si possono sentire accostati al Napoli, che da un lato sono profondamente lusingati, dall'altro però hanno secondo me il legittimo dovere di cercare di capire quanto questo tipo di acquisto poi sia benedetto all'allenatore, perché Pavoletti ce lo ricordiamo, no? Tra l'altro si è lasciato benissimo con l'ambiente, quindi non c'era assolutamente nessun problema diciamo suo personale, però insomma Sarri ha ragione, stiamo parlando di un allenatore appunto sul podio degli allenatori italiani, Sarri ha le sue idee, ha i suoi uomini, fa poco turnover, quindi io credo che se Verdi, come pare abbia dichiarato, sa che pensa di farci ancora qualche mese a Bologna, io lo capisco un po'. Fa benissimo. Ecco, no, fa benissimo perché è pure visto il passato, però se poi guardi gli altri divertente. Che giocano però, e non te, però appunto è un tipo di dubbio, di legittimo dubbio che uno si deve fare, ed è legato, quindi la cosa fondamentale lì è che ci sia un allineamento perfetto fra dirigenti, presidente, società e allenatore, nel senso che Napoli deve fare delle cose, secondo me, soprattutto ovviamente al posto dell'infortunato Ghoulam deve prendere uno di sostanza e deve prendere un attaccante che possa essere funzionale, però deve essere benedetto la Sarri, perché se no tanto vale risparmiare i soldi a Pavoletti 2 e aspettare l'anno prossimo, perché tanto 18 milioni l'anno scorso a gennaio il Napoli li ha spesi, e 18 milioni sul mercato di gennaio sono tanti soldi. Il Napoli spende sì. Il Napoli incassa pure, perché poi la cosa di Higuain è ovvio che è stato una, come direbbero gli inglesi, clamoroso, Però insomma, io su De Laurentiis francamente si può dire quello che volete, però non è uno che non stia che quando c'è da spendere spende. Poi è ovvio che il tifoso vorrebbe sempre qualcosa di più, ma il Napoli non ha il fatturato che ha la Juve, quindi sta facendo le cose bene, sta crescendo bene come società in una maniera molto, molto ordinata, molto organica, molto sostenibile, e quando c'è da fare gli investimenti li fa. Poi però ci vuole che questi investimenti siano benedetti dall'allenatore e che trovino spazio in campo, almeno sulla carta. Poi è ovvio che se un giocatore in quei mesi fa meno bene di quello, non è che Sarri lo deve per decreto schierare. Però Alessio che ci scrive: Sarri fa poco turnover perché non ha uomini di qualità per farlo, secondo me sbaglia. Perché ad esempio la parabola dell'anno scorso, i mesi che ci ha messo a inserire Zielinski, oggi Zielinski è un titolare del Napoli e quindi è un uomo di qualità, ti dice che in realtà c'è tutto un ragionamento, un lavoro differente. Sarri per me fa un poco turnover perché è un allenatore bravissimo, che ha fatto tanta gavetta, che merita un grande applauso, ma che fino a 3 anni fa allenava l'Empoli, con tutto il rispetto, allenava squadre piccole, quindi era abituato a delle rose e a delle situazioni di 11, 13, 15 giocatori. Questa è la verità. E non ce l'ha proprio così naturale il turnover scientifico all'Allegri, che è quello che porta a certi momenti a vedere i Higuain fuori, Dybala fuori, cioè, e non ha sicuramente, sì, non ha la profondità della rosa della Juve, benissimo, però secondo me c'è un fatto anche sullo mentale, proprio di impostazione. Detto questo, lo sta facendo di più, quest'anno ci sono stati dei tentativi di farlo, ne fa sempre meno degli altri, e in alcuni reparti secondo me oggi è coperto, perché a centrocampo per esempio il Napoli ha 6 titolari, dietro ha dei giocatori pagati molto tipo Maximovic, che non hanno fatto come ci si poteva aspettare, che sono fuori. E ma proprio per questo come fai a pensare di andare a prendere? Napoli è primo a queste vette, e ripeto, dal 29 ottobre non segnano 2 dei 3 attaccanti, e non è che il terzo Insigne sia Icardi che ne sta facendo. Hai fatto bene a ricordarlo, cioè ad oggi ha ragione lui, punto, punto e basta. Semmai si può discutere sulla Champions, lì si può discutere, perché non è un dettaglio. Allora, Aspettate che recuperiamo più Luigi Pardo. Intanto vi anticipo una notizia, poi nell'ultimo blocco parleremo di sci, perché ieri abbiamo vissuto l'impresa di Dominique Paris, che ha vinto la discesa libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio pochi minuti fa a Linz. La nostra Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante femminile davanti alla tedesca Rebensburg e alla statunitense Schifrin, e Paris è in testa alla combinata di Bormio, quindi stiamo vivendo 2 giorni davvero entusiasmanti per il nostro sci. Esatto, siamo a poco più di un mese dalle Olimpiadi invernali in Corea, e quindi siamo autorizzati a sperare. Allora, grande richiesta, l'ultima schedina del 2017. Vai. Ricordando, giustamente ancora una volta, che conduco per 7-6 e che comunque sia sono il campione dell'anno solare 2017. Ma la settimana scorsa, quello che è successo la settimana scorsa è qualcosa che è paradossale, sì. È minimo paradossale. Il Torino aveva avanti 2-0, si è rimontato. Succedono cose incredibili. Il Bologna 2-2 al 90esimo, che fa il 3-2 al 94. Un giorno pubblicherò i tuoi messaggini WhatsApp durante le partite. Tutto si riassume a una cosa che, come direbbe Mughini, hai un culo devastante. Dai. Va bene, a grande richiesta. Partiamo, vuoi cominciare te? Cosa sì, facciamo? Dai, Crotone, sì. Napoli 2. Allora, dai, Crotone Napoli, vabbè, è 2 per tutti e 2. Allora, Fiorentina Milan, io ti do 1. Anche io ti do 1. Atalanta Cagliari. 1. 1 anche per me. Benevento Chievo X. 2. E prima o poi doveva farlo un punto il Benevento. E l'ha fatto, l'ha sì, fatto. Beh, un altro punto. Bologna Udinese. X. 1. Roma Sassuolo. Tocca a te. Vai, dai, 1. 1 con sofferenza. 1 con sofferenza, ma non si può scrivere con sofferenza. Sampdoria Spal. 1. Sampdoria Spal, ti dico 1 anch'io. Torino Genoa, per me è pareggio. Anche per me è X, dai. Inter Lazio ti dico 2, così tu metti adesso cambi, sparigli. Dai. Allora, Torino Genoa X, tu dici Inter Lazio 2. No, io ti dico Inter Lazio 1. Perfetto. Così spariamo. E poi Verona Juventus. Tocca a te. Verona Juventus 2, dai. 2. Anche se giustamente oggi ha ricordato che non vince da tempo in memoria la Juventus a Verona, e non solo perché il Verona è stato in Serie B e che Ma un anno ha già vinto il campionato, cioè sì, è giusto. Allora, poi c'è anche da dire una cosa, che il Verona l'ha dimostrato anche recentemente contro il Milan, al netto dei problemi del Milan, lo sappiamo bene, è comunque un campo che ha una sua complessità, nel senso è comunque uno stadio che soprattutto in partite come di cartello veramente può diventare un fattore. Quindi Allegri ha utilizzato benissimo tutti gli strumenti e financo la tradizione per tenere sulla corda i suoi e dare un messaggio di concentrazione. La verità è che la Juve è strafavorita, come favorito stasera il Napoli a Crotone. Sì, strafavorita, e così dovrebbe chiudersi. Allora, ti saluto carissimo Pier. Auguri. Ci sentiamo nel 2018. Domenica noi riposiamo, come tutti i VIP. Allora, ma perché dalle 17 alle 19 la gente è impegnata in altro il giorno di San Silvestro? Ma io guarda, mi annoio. Non è fatta. Io farei, ma per esempio il 31. Cosa fai domani? Io non lo so che faccio. Domani faccio Fiorentina Milan. Fiorentina Milan. Avevo rimosso per un attimo la presenza del campionato, il quale ho appena fatto. Sai che non lo so se quell'uno, forse era meglio X. Vabbè, vedremo. Va bene, dai, ciao Pier. Ciao. Allora, abbiamo il traffico, poi parliamo di sci, apriamo questa meravigliosa pagina, c'è un amico che ha scritto: tanto come sempre i nostri sciatori fanno bene prima delle Olimpiadi, ma poi spariscono nelle Olimpiadi, fateci caso. Facciamoci caso, ne parliamo con un grande esperto che ha appena chiuso la telecronaca su Eurosport e che ieri ci ha raccontato la vittoria di Dominique Paris. Traffico. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta... convocati. Da tenere duro qui e basta, gli ultimi 15 secondi da tenere veramente giù il gas e non pensare alla fatica. 1:39:71, si può raccogliere ancora qualcosa in questi ultimi 10 secondi di gara, tutti scorrevoli per Dominic nello show finale davanti al pubblico di casa. 1:56:95, 4 centesimi. Grande, e si conferma la regola degli azzurri. Gli azzurri. Sono contento che torna adesso la forma, verso gennaio, è quello molto importante, dà tanta fiducia e per le prossime gare, poi adesso vediamo a Wengen com'è, ma spero di portare questo anche a Pyeongchang. Buon feeling sugli sci, anche la fiducia e la vittoria, la Stelvio, è quello, cioè tutto insieme è tornato al momento giusto. Momento giusto. Italiani tifosi, posso salutare, posso ringraziare per averne così tanto nello sci e forse ci vediamo al prossimo. Va bene, non siamo mai contenti. Allora, ieri Paris sulla Stelvio di Bormio, oggi, pochi minuti fa, Federica Brignone che ha vinto il gigante a Linz in Austria davanti alla Rebisburg e alla Schifrin. Poi arrivano messaggi, uno che scrive che siamo facilitati dalla preparazione degli altri quando manca un mese alle Olimpiadi, l'altro Matteo che dice se non fosse per gli altoatesini saremmo a livello di Malta e siamo un paese alpino, però insomma gli altoatesini fino a prova contraria fanno parte dell'Italia e quindi ci prendiamo con grande gioia le vittorie degli altoatesini. Gianmario Bonzi, ciao! Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, ricordando che i più vincenti però sono Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, che non vengono dalla sua Adige. No, uno da Sestro e l'altro da Santa Caterina Vaffurva, giusto? Esattamente, esattamente. E quindi ce li teniamo volentieri anche loro. Oh, cosa ha fatto oggi la Brignone? Oggi la Brignone è tornata, lei è tornata a vincere in Coppa del Mondo, è una grandissima notizia, intanto perché arriva a 24 ore di distanza dal successo di Paris, ma soprattutto per quello che ha fatto nella seconda manche sulla parte finale della pista di Lienz, e per lei ci voleva dopo le difficoltà di inizio stagione, più che altro dopo la pubalgia estiva, insomma, dove era già in formissima d'estate, ma purtroppo poi ha dovuto praticamente fermarsi nel mese di ottobre e ha messo in riga tra l'altro insomma Schifrin e Rebensburg, quindi campionesse assolute, prima vittoria italiana femminile in stagione e la 75esima in assoluta in Coppa del Mondo, ma soprattutto ritroviamo l'atleta più vincente assieme a Dominic Paris degli ultimi anni, insomma, in Coppa del Mondo. Quindi bene così a poco più di un mese dalle Olimpiadi. Sì, poi stiamo cancellando quegli zero nella casella delle vittorie, addirittura per i maschi nella casella dei podi, perché per prima di ieri, insomma, non era andata benissimo. No, esattamente, era il peggior inizio di stagione, nel senso senza podi, degli ultimi 37 anni. Però onestamente non ero particolarmente preoccupato, nel senso che Paris, Fila e Inerhofer nell'ultimo lustro abbondante, insomma, hanno garantito un livello medio talmente alto che si potevano scacciare tranquillamente i pensieri negativi. C'era appunto questo dato che un po' inquietava. Se vogliamo, il problema principale è che mancano un po' i ricambi, soprattutto a livello di velocità maschile in maniera clamorosa nello slalom femminile, ma questo è un problema che nasce da parecchie parecchie stagioni or sono. L'ultima vittoria in slalom tra le donne risale esattamente oggi a 10 anni fa, Chiara Costanza proprio all'Inter. Però detto questo, l'Italia poi è competitiva nelle altre specialità. Ma è vero quello che scrivono gli amici da casa? Guardate che gli altri si preparano diversamente quando manca un mese alle Olimpiadi e magari questo è il nostro momento del raccolto, poi rischiamo di andare in Corea e sparire. Io non credo, storicamente non è stato così, però... Ma allora, ho sentito anche quello che dicevi in precedenza del messaggio dell'ascoltatore. Proprio tutti i torti non li ha, nel senso che l'Italia è 13ª nel medagliere assoluto degli sport invernali, mentre è 5ª alle Olimpiadi in quello estivo. Quindi storicamente facciamo ben più fatica. Certo, abbiamo avuto i supercampioni, i Toni, i Tomba, i Zogler, le compagnoni. In ogni caso, io mi sento di essere ben più fiducioso in vista delle Olimpiadi di Pyeongchang per diversi motivi. Intanto perché Paris e Brignone sono campioni, ma non solo loro. Poi perché comunque, per esempio, a livello femminile non si vince una medaglia dal 2002 Salt Lake City e prima o poi, avendo atlete di alto livello, deve interrompersi questa striscia. Però effettivamente non ha proprio tutti i torti, ma non è un discorso, secondo me, di andare bene prima o di andare bene dopo, come è successo lo scorso anno dopo San Moritz. È che proprio storicamente non è che abbiamo vinto, a parte i campioni che vi ho detto, tutte queste medaglie all'Olimpiade invernale. Questo è un dato di fatto, sinceramente. Intanto Pierpaolo da Bologna ci corregge, ricordandoci che Tomba a Sestola si allenava ogni tanto. Ma lui Tomba è di Castel de Britti. Quindi abbiamo fatto ammenda. Ieri Dominique Paris ha vinto una gara strepitosa perché poi la Stelvio è una delle piste più belle, più difficili, mancava dalla Coppa del Mondo da 4 anni, però è una di quelle che ti laurea campione. Se tu ci vinci una volta e Paris ci aveva già vinto, sei campione per sempre. Assolutamente, lui aveva già vinto ex aequo nel 2012 con Hannes Reichelt e stavolta invece la vittoria è stata tutta sua, e tra l'altro mettendo in fila fior di campioni, perché dietro di lui ci sono Svindal, Jansrud, Foyt, Reichelt e Matthias Maier, che sono tutti campioni che hanno vinto ori mondiali o olimpici. Al di là di quello, doveva risolvere qualche problemino, questo dicevano le voci di corridoio, tra schiena e setup con i materiali, soprattutto con lo scarpone, e dopodiché abbiamo ritrovato il miglior Paris. Adesso arrivano altre piste che gli piacciono, Wengen, con cui ha un rapporto particolare, però gli piace moltissimo, e poi Kitzbühel. L'aspetto più importante rimane sempre lo stesso, la condizione che cresce in vista delle Olimpiadi per evitare quello che è successo lo scorso anno. Secondo me dalle parti di via Piranesi, dove ha sede la Fisi a Milano, qualche idea è arrivata da parte del presidente, cioè ok, lo scorso anno record di podi in Coppa del Mondo, ma una sola medaglia ai mondiali, ecco, alle Olimpiadi non è il caso di ripetere la stessa situazione. Poi però non è che è semplicissimo programmare, no, certo, il top della forma. Non si può programmare la vittoria alle Olimpiadi. Com'è la pista della discesa olimpica? La pista di discesa olimpica piace agli italiani, a Yeonseon. Sono due i resort di gara olimpici, Yeonpyeong per le prove tecniche e Yeonseon per le prove veloci e la combinata. Dominic Paris è stato secondo nelle preolimpiche del febbraio del 2016, quindi è una pista che gli piace sicuramente, è un'autostrada, è una pista che si adatta alle sue caratteristiche e a quelle di Sofia Goggia, che ha vinto le preolimpiche sia in discesa che in Super G nello scorso marzo, per cui c'è da essere assolutamente positivi, però l'importante è vedere lo stato di forma a fine gennaio, perché poi nelle discipline di neve e ghiaccio è quello che contava. L'Italia in generale sta andando decisamente bene, quella di oggi è la 9ª vittoria e il 39esimo podio in stagione tra Coppa del Mondo e Grand Prix, soprattutto in 9 discipline diverse, 4 del ghiaccio e 5 della neve. E quindi dobbiamo aspettarci due belle settimane a febbraio in Corea. Allora, a Bormio intanto, combinata maschile, dopo la prova di discesa c'è in testa ancora Dominique Paris, c'è terzo Peter Phil, c'è il francese Pinturo staccato ma non troppo, 1,65, quindi non so se possiamo illuderci, perché poi c'è la prova di slalom. Ma secondo me non è impossibile sognare un podio, che Paris ha già raggiunto a Chamonix il 19 febbraio del 2016 in combinata. Tutto sommato tecnicamente il ragazzo è preparato anche in gigante, tant'è che in allenamento va sempre molto bene tra le porte larghe, però insomma si diverte fondamentalmente in questa specialità, scende senza pensieri, libero. Il podio è anche possibile, soprattutto dopo che hai vinto la discesa libera. E poi storicamente negli appuntamenti che contano i mondiali, insomma anche le Olimpiadi, Neroffer ha fatto bene, ha vinto due medaglie in questa specialità. Diciamo che basta che si diverta, l'importante è aver trovato la condizione migliore proprio in vista dell'appuntamento olimpico. Intanto gli amici da casa, solleticati da quel messaggio sugli altoatesini, stanno riscrivendo la geografia degli sport invernali italiani. Allora, ricordano che Claudia Giordani era di Milano, e quindi i campioni di sci di ieri e di oggi non tutti erano altoatesini. Poi Pierino Grosso era piemontese. Era piemontese. Sì, sono Sedul. E poi ancora Grosso non era altoatesino. Ghedina era di Cortina. C'è chi tifa anche per la Ragut, che per metà è di origine italiana. Si può prendere, no? Dico mano. Sì, sì, perché no? Prendiamo tutto. Nazionalità in Svizzera. Sì. Ma di cinesi forti ce ne sono state tanti, quindi. Comunque dico, ma no, è Svizzera, c'è poco da fare. Sì, appunto. E poi c'è lo sci di fondo. Ma io non farei nessuna distinzione. Stefania Belmondo è stata una grande, sì, e non era altoatesina. Stefania Belmondo è stata una grandissima. Stefania Belmondo di Ponte Bernardo, provincia di Cuneo, vicino a Borgo San Dammazzo, che è il paese di Marta Bassino. Ma io non farei nessuna Zeno distinzione. Zeno Colò della Betone. Guarda che abbiamo scatenato, Zeno Colò della Betone. Quindi non altoatesino, però possiamo non fare differenze, dai. No, anche perché comunque c'è un dato importante, e la vittoria di Paris di ieri è la centesima di un altoatesino in Coppa del Mondo tra maschi e donne, e la prima a vincere nel 67, nel marzo del 67, fu altoatesina, la Giustina Demetz. Ma ripeto, io metterei tutti nel calderone italiano. Ma sì, mettiamo tutti nel calderone italiano. Ti chiedo, prima di salutarti, due nomi secchi, due, magari tre, che dobbiamo tenere d'occhio, italiani ovviamente, per le Olimpiadi. In sci alpino o in generale? In generale. In generale io direi Federica Brignone e Michela Moioli dello snowboard cross. Possiamo puntarci. Assolutamente sì, ma non solo, non solo. C'è chi ci ricorda Lara Magoni di Selvino, qui non finiamo più. Grazie Gianmario. Grazie a voi. Grazie Gianmario Bonzi, telecronista di Eurosport. Allora, ci fermiamo qui. Io ringrazio Chiara Compagnoni e Chiara Ferré che mi hanno assistito al di là del vetro, insieme ad Andrea Roccabella. Tutti Convocati torna nel 2018 e vi racconteremo anche l'inizio di questo anno con il calcio che non si ferma, quindi rigorosamente in diretta tra stasera e domani, l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. Ciao a tutti e buon anno. E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!